fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E siamo entrati nuovamente in diretta, ci inseriamo in questa serata Dinner and Dance di questo sabato 25 agosto. Sono le 2.52, siamo nella piena notte, ma la pista è ancora piena. E qui in studio in questo momento abbiamo portato degli amici, sono degli amici un po' particolari questa sera qui al convento. Sono degli amici che abbiamo già avuto ospite in passato e che questa sera sono tornati a trovarsi, ma facciamolo dire direttamente da loro chi sono e da dove vengono intanto. Presentati, il tuo nome. Ciao, buonasera, sono il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Piano di Fieme. Siamo qui al convento questa sera per una serata conviviale del corpo, per, diciamo, è una specie di premio per come si è comportato il corpo, giustamente molto bene quest'anno. È stata una serata per così ringraziare tutto il corpo del lavoro che ha fatto. Il tuo nome? Sono Tiziano Larve. Tiziano il comandante. Ragazzi, non so se avete sentito, ma questi ragazzi, sono 25 ragazzi questa sera, sono venuti in quel convento da noi, sono il corpo dei Vigili del Fuoco di Ziano di Fiemme. Questo vuol dire che sono volontari per un'attività veramente straordinaria, che è l'aiuto e il soccorso alle persone che richiedono l'intervento di queste persone strepitose, straordinarie. Non è la prima volta che venite al convento, o sbaglio? Siamo già venuti due anni fa. Siete già venuti. Ci era piaciuta veramente la serata. Abbiamo partecipato qui al video con la canzone dei Vigili del Fuoco. Era stata una cosa simpatica, ci eravamo divertiti veramente tanto. Ci siamo divertiti e siamo ritornati. E siete ritornati. Ma non voglio parlare del convento, ma voglio parlare di voi, ragazzi. Ci sono altri due amici qui insieme a te. E mi dici i nomi? Qui abbiamo Andrea Zanon, che è l'organizzatore della serata. Siamo andati a fare un piccolo gran premio di go-kart. Andrea si è occupato dell'organizzazione della serata. E Tullio Polo, un vigile storico, diciamo, molto partecipe della vita del corpo. Allora, la vostra attività principale è quella di intervenire su chiamato, ovviamente, certo che sì. In quale ambito vi operate? Cioè, qual è il territorio che andate a coprire? Il territorio è prettamente quello comunale, del comune di Ziano di Fieme, in Val di Fiemme, provincia di Trento. In più partecipiamo anche a tutte le attività, eventualmente a livello distrettuale, in tutta la Valle di Fieme, in caso di bisogno. Recentemente abbiamo partecipato all'alluvione di Moena, che è stata abbastanza impegnativa, sono stati 4 giorni di intervento, alla quale abbiamo partecipato con turnazioni di personale, e appunto è stato uno dei motivi quest'anno per il quale ci siamo un po' meritati questa serata. È stato un intervento molto complesso, complicato, esatto. È stato un intervento che ha richiesto un grande sforzo. Esatto, parecchie turnazioni di personale, con attrezzature personale soprattutto. Ho capito. Questo è stato per un'alluvione. I vostri interventi più frequenti in cosa consistono? I interventi sono molteplici, diciamo, dalla ricerca persona all'incendio, all'incidente stradale, al semplice recupero di api o vespe sui tetti. Sono veramente molte. I più disparati, perché d'altronde noi cittadini, se abbiamo esigenza di questo tipo, a chi ci dobbiamo rivolgere? Ci dobbiamo rivolgere a quegli angeli che siete voi, ma veramente angeli. Non so se avete notato, ma prima, quando c'è stato il momento del taglio della torta, la presentazione, l'appello, eccetera, abbiamo ricordato i Vigili del Fuoco di Ziano di Fiemme e c'è stato un applauso da parte di tutti i partecipanti, tutti gli invitati al convento, proprio perché la vostra figura è veramente sempre una figura che tutti noi portiamo nel cuore, perché davvero essere volontari, investire il proprio tempo senza un ritorno di interesse di nessun genere per operare in questi ambiti è veramente una cosa molto importante. Devo dire che questo ci fa piacere, recepire queste cose, perché è l'unico pagamento, diciamo così, che abbiamo, no? È proprio la gratitudine. Recentemente abbiamo effettuato una serata a casa aperta, chiamiamo così, Sì. Apriamo la nostra caserma e facciamo venire la gente a vedere i nostri mezzi, la nostra attrezzatura, organizziamo magari un percorso per i bambini che possono fare un po' l'attività logicamente adatta ai bambini. Certo. Vengono con un sorriso, un entusiasmo enorme, è l'unico pagamento che abbiamo e noi ci riempie il cuore veramente. È l'unico pagamento che recepiamo. Ci credo. Un intervento, avete raccontato l'intervento per questa situazione di allagamento, di alluvione, e qualche altro intervento che porti nel cuore, che hai avuto nella tua carriera di comandante di questo corpo, un altro intervento che porti nel cuore con tanto, ce ne saranno tanti, gli interventi nostri non sono piacevoli, nel senso che andiamo sempre ad effettuare degli interventi logicamente quando qualcuno ha bisogno, che logicamente la loro parte è negativa, la nostra è logicamente di portare aiuto, risolvere le situazioni nel miglior tempo e nel miglior modo possibile. Interventi, non posso dirtene uno migliore, sono tutti uguali perché portiamo aiuto a qualsiasi persona. Uno che porti nel cuore, non ce n'è uno in particolare che ma puoi dire? Ma ti devo dire di no. Ah, perché proprio? Sono, ho capito. Noi portiamo con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione in tutti gli interventi, in qualsiasi tipo di intervento. Ah, ecco, non ce n'è stato uno che dici sono riuscito a concretizzare questo aiuto e questo è stata una gratificazione enorme che no, non c'è. Intervieni pure invece, vedo che sei partecipe. No, eccolo il microfono. Niente. Non ci sono, non c'è. Io sono uno dei vecchi che sì? Sono nel corpo e da 35 anni io sto lavorando con i vigili volontari e diamo tutto il nostro tutto quello che noi possiamo dare, e queste serate qua ci aiutano perché noi in questo modo ci uniamo, certo, facciamo unione, gruppo, certo, ecco, gruppo, ecco, certo. Poi sono anche delle cose, questa qua è una cosa particolare, però abbiamo delle cose anche più piccole, dei ritrovi che ci facciamo, perché noi dobbiamo, il nostro scopo è quello di fare del bene a chi ha bisogno. Noi doniamo circa 3.500 ore alla nostra popolazione che abbiamo all'anno, del nostro paese, e questo per noi è una cosa molto bella, perché diamo tutto quello che possiamo per aiutare le persone. Questo è il nostro scopo. Certo. Ci vuole per essere parte del corpo, ci vuole una specializzazione particolare, ci vuole una preparazione particolare. Sì, effettivamente noi richiedete il volontario che chiede, fa domanda al corpo, viene recepita da parte del direttivo, no? Viene approvata la richiesta di partecipazione al corpo, vengono eseguite delle visite mediche logicamente per approvare la fisicità del vigile allievo. Vengono fatte delle visite mediche, delle prove attitudinali a vedere che a livello fisico sia all'altezza della situazione. Poi si passa all'iscrizione al corso base, un corso base di 110 ore distribuite nell'arco annuale, dove si vanno ad effettuare appunto delle formazioni base su tutte le tipologie di intervento che si possono effettuare, dall'incendio, dall'allagamento, dal supporto di soccorso, piuttosto che a livello di base di tutte le tipologie di interventistica che si possiamo effettuare. Ho capito. E in queste 110 ore uno già al termine di questo corso di 110 ore è operativo a tutti gli effetti per poter intervenire. Ci sono vari corsi da effettuare a livello successivo, corsi specialistici. Quando si forma una squadra ci sono delle mansioni che ognuno ha? Cioè voi cosa fate? Siete chiamati per un intervento e questo intervento necessita di... Noi essendo volontari non sappiamo mai chi parteciperà all'intervento. Noi siamo operativi H24. Possiamo essere chiamati tramite adesso il numero unico 112, lo ripeto, l'112, il numero unico di emergenza. dove recepiamo la chiamata. Essendo volontari possiamo essere a casa, al lavoro, piuttosto che in ferie. Noi dove siamo lasciamo quello che, se è possibile, quello che stiamo facendo, arriviamo in caserma dove poi partiamo per l'evento alla quale siamo chiamati. Ho capito, in caserma, e non sappiamo però mai chi può essere tra di noi, certo, presente in partenza. Certo, ma in caserma c'è sempre qualcuno, cioè sempre coperta, no, la presenza? No, siamo, essendo ecco, siamo volontari, no, appunto non abbiamo il piantone, detto così, certo, in caserma, certo, certo. O il centralinista. Il primo che arriva solitamente si ferma poi in sala radio e poi da lì si gestisce poi l'intervento. Ho capito, perciò arriva un intervento per un allagamento, cioè c'è un allagamento e tu in quel momento decidi quanti uomini chiamare. No, siamo chiamati tutti noi. Ah, come siete chiamati noi? Tutti poi tutti quelli che sono reperibili, esatto, in quel momento, in che sono squadre di... Noi siamo in 28 operativi all'interno dell'area comunale, poi non tutti in quel momento magari sono effettivamente possibilitati all'intervento, sulla ventina magari si può essere effettivamente reperibili, si parte e poi non tutti logicamente assieme usciamo sui mezzi, prima magari potrà essere 5-10 persone, poi man mano arrivano gli altri, il supporto. Se non siamo abbastanza, abbiamo comunque una gestione a livello distrettuale, diciamo che il nostro distretto copre tutta la valle di Fiemme, siamo 13 corpi, collaboriamo veramente in modo 13 corpi. Nella valle, ah, nella, però. Valle di, perciò se la matematica non è opinione, 350 persone, esatto, stavo dicendo, siamo 317 vigili del fuoco su un'estensione territoriale di quanti chilometri? 24 chilometri, 21 comuni, no, 13 comuni. 13, scusa, sì. Ah, ecco, 13 comuni, che, però c'è una partecipazione veramente molto sentita, sì, allora. È una forza. Noi siamo della provincia di Trento, il volontariato in provincia di Trento è una cosa veramente sentita. Sì, né? Sentita, sì, dall'ambito dei vigili del fuoco, dalle ricerche persone, soccorso alpino, Croce Rossa, Croce Bianca, veramente è una cosa molto sentita, alpini, nuvola. Mi viene da pensare, è collegato anche al periodo estivo, che ogni anno si presenta il problema degli incendi dolosi. Effettivamente è un grosso problema per voi. Noi grossi problemi di incendi non ne abbiamo, perché nella magnifica comunità della Val di Fiemme abbiamo una gestione forestale che è molto controllata e radicata. Perciò qualsiasi cittadino, quando vede un pelo di fumo, si mette subito in allerta, chiama subito. C'è molta collaborazione. Certo, è una collaborazione ormai millenaria. Effettivamente la proprietà dei boschi è comunitaria. Praticamente è una cosa sentita, è come se brucia il bosco e se brucia qualcosa di nostro. È comunitaria, né? Perciò certo. Diciamo che ogni cittadino in qualche modo è proprietario, fa parte della collettività, perciò si sente in qualche modo anche chiamata in causa. È un'istituzione millenaria ormai. Certo. Passato i 900 anni di vita. E questo facilita molto il controllo da parte di ogni cittadino, certo, e di conseguenza l'intervento è facilitato dal fatto che ogni persona è molto responsabile di quello che succede. Ah, ecco, certo. Perciò allora non è uno dei problemi più grossi. Effettivamente incendi boschivi non ne abbiamo tantissimi, effettivamente perché abbiamo una rete viaria anche a livello boschivo molto articolata e molto presente, perciò anche un incendio boschivo riusciamo a raggiungerlo in modo abbastanza rapido. Problemi idrici non abbiamo per lo spegnimento, perché recepiamo l'acqua in modo abbastanza rapido. Ma perché ci sono fiumi, perché bacini, torrenti, fiumi sui quali andare. La nostra zona è una zona prosperosa di acqua. Certo. Perciò non avete neanche questa difficoltà. Di quanti mezzi disponete? Nel nostro corpo abbiamo 8 mezzi. Ah, però, 8 mezzi? Sì. Pensavo 1, 2, 3. No. Ah, invece 8 mezzi. Essendo volontari, appunto, non abbiamo una partenza unica, essendo che possiamo arrivare anche scaglionati in caserma, abbiamo la possibilità di più mezzi, anche dai piccoli ai più grossi, magari un po' più scappano. Ho capito. Però riusciamo a uscire con più mezzi a coprire dall'incendio boschivo, appunto, da qualsiasi tipo di intervento che veniamo chiamati: incendio boschivo, incidente stradale, ricerca persone, nel recupero di siamo capaci di uscire dalla caserma in 3-4 minuti. 5 minuti usciamo dalla caserma partendo, cioè, da chiamata, casa. Partendo da casa, chiamata in 4-5 minuti, riuscite a partire, a raggiungere in caserma, a partire. Gruppo, prima partenza. Certo. Caspita, è un pronto intervento veramente, certo, efficientissimo. Eh sì. Per raggiungere poi, avete detto, questi, sì, 20 e chilometri. E poi abbiamo... No, noi siamo a livello comunale, perciò ogni comune ha il proprio corpo. E, siamo veramente capillari. Diciamo, non diamo... non satirizziamo solo il comune, abbiamo veramente, ogni comune ha il suo corpo, perciò siamo veramente, abbiamo una copertura veramente completa. Perciò le 28 persone sono solo di questo comune, sì, certo. Però in qualsiasi momento ci conosciamo quasi tutti, perché poi facciamo delle manovre distrettuali di tutto la valle, tutti assieme, perciò ci conosciamo quasi tutti. Ci troviamo parecchie volte all'anno e sì, poi... fate proprio corpo, certo, è proprio il caso, certo, di dire, certo, che fate veramente corpo. Facciamo più che corpo, facciamo squadra. Squadra. Quando voi intervenite, ognuno di voi ha una mansione specifica o tutti fanno tutto? No, abbiamo una certa gerarchia, no? Dobbiamo essere, non dico militarizzati, ma quasi. Perché sull'intervento abbiamo delle responsabilità logicamente da dover recepire, e allora abbiamo una certa scala gerarchica da dover seguire. Ci sono delle mansioni specifiche, ci sono dei corsi specifici da eseguire, delle varie responsabilità da avere. Perciò nel caso tuo, ricordami il tuo nome? Tullio. Nel caso tuo, Tullio, tu su un intervento hai delle mansioni specifiche su un intervento? Io sono vigile del fuoco, e io sono stato preparato per tutti gli anni che io ho seguito, io sono stato preparato per l'intervento in abitazione civile. Io sono un po' quello che può fare un po' tutto, ecco, però per esempio io non occupo quello che è la ricerca persona gestionale della ricerca in caso di intervento su ricerca persona, perché noi abbiamo un gruppo che fa quel lavoro Allora, lui è un vigile operativo, nel senso che è operativo in tutti gli ambiti e va a operare direttamente a livello veramente operativo, va a lavorare, diciamo. Certo, poi sì, nei vari gradi di servizio logicamente ci sono delle varie scale da seguire, ecco. Lui nella sua gamma, diciamo, degli anni di esperienza ha potuto effettuare dei vari corsi, delle varie specializzazioni, e riesce a operare in tutti gli ambiti, no? Poi abbiamo Andrea che è qui presente stasera, lui è in grado l'incarico di magazziniere, lui ha sotto occhio, diciamo, tutto quello che è il magazzino, certo, della caserma, e tutto quello che abbiamo sotto. E anche operativo, logicamente. È un po' più giovane di servizio, però a livello... Siete supportati dalle istituzioni? Certamente. Siete supportati dal nostro comune piuttosto che dalla provincia. Ricevete un po' di aiuti, anche contributi, anche economici? Sono sufficienti? È un contributo pubblico. È una rete provinciale, è la provincia di Trento, una rete provinciale su quello che è la calamità, la protezione, certo, civile, protezione civile. È una, certo, certo. Facciamo parte di questa rete, e questa rete qua ci dà una mano per poter arrivare a fare il nostro operato nel migliore dei modi, Ho capito. E sono veramente informazioni che noi cittadini facciamo, alle quali non abbiamo quotidianamente possibilità di avvicinarci, di raffrontarci. Di conseguenza state dando a me, che sono particolarmente interessato, e a tutti i nostri ascoltatori, state veramente dando delle informazioni preziose e che in qualche modo ci colpiscono, perché veramente dedicate, sottraete tempo alle vostre famiglie, per questa missione. Ecco, prima non mi veniva il termine, le nostre famiglie, una missione davvero. Una missione detto davvero. Questa frase mi sono venute in mente le facce dei miei tre figli, che quando appunto esco per manovre piuttosto che per riunioni del corpo, e dicono anche stasera vai dai pompieri, ma anche stasera, certo. Saranno più grandi, magari si renderanno conto. Un grande elogio alle nostre famiglie, alle nostre mogli, certo, che ci sopportano. Certo. Questo facciamo a togliere del tempo ai nostri figli, che logicamente ne soffriamo di perdere il tempo dei nostri figli, ma per un contributo che diamo alla comunità. Perché quando sono il nostro. Noi dal 2001 abbiamo tutti quanti appresso un cerca persone che si chiama quando c'è bisogno, e che sia le 12 a mezzogiorno o le 12 di mezzanotte a mezzanotte, noi dobbiamo partire, le nostre famiglie non sanno dove noi andiamo, in quale pericolo ci mettiamo, e le nostre mogli stanno sempre in apprensione, perché noi logicamente quando lavoriamo su certi problemi non possiamo telefonare a dire siamo qua o siamo là, e sono prima di tutto le nostre mogli, perché logicamente le nostre famiglie non andate sicuramente a fare qualcosa di particolarmente tranquillo. Bellissima frase di un ex comandante del nostro corpo, che diceva: quando un vigile del fuoco va su un intervento, ce n'è sempre un altro che resta a casa. C'è sempre un altro, la nostra moglie, la nostra Sì, veramente, complimenti davvero, sono veramente molto stupito, commosso anche, perché è veramente una organizzazione, siete veramente delle persone straordinarie. Poi in Trentino da voi si sente particolarmente questa forza, perché abbiamo un'istituzione come centenaria, noi abbiamo fatto quasi i 150 anni, quasi 150. Ecco, ve lo stavo chiedendo infatti da quanti anni, 150, che esiste il vostro corpo, perché è proprio il corpo di Ziano di Fiemme, 150 anni. Mio bisnonno era pompiere, mio nonno è stato pompiere, mio padre è stato pompiere, io sono stato, è una cosa che poi ci tramandiamo. Ah, però Tullio, ecco, pensi che possano essere pompieri anche i tuoi figli? Sì, mio figlio è pompiere, adesso ho i miei nipotini che vediamo. Davvero. Abbiamo già figlio capo squadra. Cinque generazioni. Anche tu vieni da generazione? No, effettivamente no. Ah, ecco, tu invece sei entrato. Io non ho antenati i pompieri, ho avuto sempre la passione. C'è sempre un da primo, bambino. C'è sempre un sempre primo. Qualcuno che deve aprire, certo. Ci sarà qualcuno nella sua stirpe poi che dirà: il nonno, il bisnonno, era comandante. Sicuramente è stato il primo di una. Un buon primo di una stirpe. Un buon primo. Anche Tiziano. Io devo dire, ragazzi, veramente un complimenti. Raccontami, comandante, con i tuoi occhi, cosa stai vedendo fuori? Io effettivamente sto guardando i miei vigili di fuori che ci stanno guardando, ci stanno seguendo. Perché ti dicevo, siamo un corpo, ma siamo anche un bel gruppo di amici. Sì. È un bel gruppo di amici che oltre a livello pompieristico ci vediamo anche io, fuori. Io vorrei come giovane che dica qualcosa nostro amico Andrea, che ci ha organizzato questa serata. Perché per noi è una cosa molto importante trovarci in armonia. Stasera abbiamo fatto dei giri sotto l'acqua nei go-kart. Ecco, però sai, quando ci troviamo così, poi ci rafforziamo, diventiamo più amici. Ecco, vorrei che Andrea... Infatti Tullio, non abbiamo toccato l'aspetto, ma che è sempre stato presente in tutto quello che ci siamo detti fino adesso, l'aspetto dell'amicizia di gruppo, no? Il concetto dell'amicizia. La famiglia, perché è quasi una famiglia per la nostra. Perché ci deve essere per forza, certo. È un fatto di fiducia anche tra di noi, no? Bisogna avere molta fiducia anche nell'intervento stesso. Vorrei che Andrea dica qualcosa. Dai, Andrea. Andrea è organizzato, Andrea, anche lui figlio di pompiere. Davvero, anche tu è figlio d'arte. Sì, anche mio papà è pompiere. E anche il nonno era pompiere. E magari in una serata come questa, sì, abbiamo visto, si riesce tanto a fare gruppo, e questo aiuta. Perché stare tanto assieme così, e magari ridere così, stare assieme, fa proprio gruppo, aiuta anche poi nel lavoro del corpo, e secondo me è una cosa che fa bene questa. Va bene, fate spesso di frequente, e organizzi sempre tu, sei tu l'organizzatore di queste cose? Ma sì, ho organizzato io, perché io vado col kart proprio, allora ho deciso, magari ho detto sarebbe bello andare tutti insieme, Avete fatto una gara? C'è qualcuno che ha vinto? Sì. No, perché abbiamo dovuto smettere per il maltempo. Non siete riusciti proprio a... non siete riusciti a correre? Qualcosa, però ci siamo divertiti comunque, è stato bello, poi siamo venuti qui e... E qui abbiamo continuato, sì, continuato con questa stare assieme. Così, era il cartodromo qui di Lonato, siete venuti? Sì, è una bella pista questa. Sì. Abbiamo preso l'acqua a diluvio stasera. Forse è stata che ore erano? Erano le 8, abbiamo cominciato. Sì, ma le 8, cioè, sì. Le 8 proprio quando ha cominciato a diluviare forte, in pratica. Effettivamente, mentre giravamo, mi è venuto in mente proprio recentemente, abbiamo appunto partecipato all'intervento dell'alluvione a Moena all'inizio, che è spartiato tra la Valle di Fiemme e la Valle di Fassa. Ho detto, cazzo, neanche a Moena abbiamo preso così tanta acqua come stasera. Mannaggia. Allora bisognerà ripetere questa esperienza. Sì, certo, questa esperienza ormai sta diventando quasi un... Ma siamo venuti 2 anni fa a fare la stessa esperienza praticamente. Prima abbiamo girato coi kart e poi siamo venuti qua. Sempre Andrea aveva appunto organizzato. Bene. Ci rafforziamo, ecco. Certo. Importante questo. È molto importante. Io vi ringrazio per aver dedicato tutto questo tempo a me, perché è stato veramente... ci tenevo già all'inizio serata, sono venuto a cercarti, comandante, per fare questa chiacchierata. Poi ho trovato tutto il gruppo radunato nella nostra roulette drink e alle prese con le fish e con la possibilità di vincere gadget. Frederick, siete stati anche nella nostra area YouTube, avete cantato? Abbiamo cantato l'altra volta che siamo... E questa volta no? Non ancora. Non è detto che sia finito. E poi abbiamo fatto questa esperienza radiofonica in questo studio radiofonico, in questo nostro Risto Radio Convento. Ricordo che sono le 3:18 di questa notte, di questo sabato 25, oramai domenica 26 agosto. È stato molto bello potervi avere ospiti e vi ringrazio di averci scelto per questa vostra serata di gruppo e di ritrovo e di squadra. Perciò vi ringrazio tanto di aver scelto il convento. E vi ringrazio anche per quello che ci avete raccontato, ma soprattutto ancora di più vi ringrazio per quello che fate, perché veramente, veramente la figura vostra è una figura di riferimento e che poco conosciamo, perché abbiamo poche volte occasioni di avvicinarci a voi in questo modo, per conoscerci. Quando ci si avvicina a voi non è per conoscerci, è per esigenza, per necessità. Non ci piace fare tanta pubblicità, no? A volte però bisognerebbe, no? Bisognerebbe veramente farla, perché ci si conosce poco, ci si chiama solo nel momento del bisogno. Certo. E tante volte bisognerebbe vedere un avvicinarci anche in altri ambiti, in modo da anche sensibilizzare su altri aspetti tutto quello che è la protezione civile e vivere in modo diverso gli eventi calamitosi. Certo, assolutamente. Volevi aggiungere qualcosa tu? Vorrei ringraziare tutti i vigili del fuoco della Val di Fiemme, tutti i vigili del fuoco del Trentino e anche tutti i vigili del fuoco degli italiani per quello che stanno facendo per aiutare le persone, perché questa è la cosa migliore. E un consiglio da veterano, perché penso di essere un veterano, e cercate di andare tutti d'accordo e di fare delle cose, perché stiamo aiutando delle persone che hanno bisogno. E con queste parole, con questo sottofondo di festa ancora nel locale, di grande festa nel locale in quest'ora oramai di tarda notte, però sono parole che dobbiamo ricordarci, portarci sempre nella nostra mente per riflettere, nel nostro cuore per applicarle davvero. Un ringraziamento particolare e un grazie di cuore, grazie comandante, mi piace come andate così comandante. Grazie Andrea, grazie Tullio per quello che ci avete raccontato. Grazie di cuore, grazie a voi. Grazie a te, buonanotte a tutti. Buonanotte.